Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica della settimana. Parleremo però anche della giornata mondiale per la prevenzione, o meglio per la riduzione dei rischi dei disastri naturali, perché oggi è stata anche l'occasione per fare il punto su non tanto e non solo, ne abbiamo parlato molte volte, ahimè, visti disastri naturali, terremoti, ma non solo, di questi anni, non solo, dicevo, non tanto per l'intervento dello Stato e quindi quanti soldi andrebbero messi, e spesso non sono ancora stati messi, per quello che si chiama, per quella che si chiama prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche gli errori che compiamo noi. I dati su quanti italiani sono consapevoli del rischio sismico nella zona in cui hanno casa e si assicurano su questo, obiettivamente non dico che siano sconfortanti, ma quasi. Ne parleremo. L'altro tema che affronteremo assieme, ripeto, alla startup della settimana, oltre che alla classifica della settimana, invece è il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Perché? Perché oggi, come i nostri GR24 vi hanno ricordato, sono scesi gli studenti in piazza in 70 città italiane, anche qualche tensione, mobilitandosi contro l'alternanza scuola-lavoro e per il diritto allo studio, e hanno protestato anche contro le scarse risorse riservate alla scuola pubblica e le condizioni dell'edilizia scolastica. Siamo studenti, non siamo operai, questi gli slogan, no allo sfruttamento gratuito. Domani, tra l'altro, sul tema vi anticipo che il ministro Fedeli sarà ospite a Radio 24, Si può fare, domani mattina. Però attenzione, perché qui bisogna distinguere, a mio avviso, tra i casi reali di sfruttamento o di non utilizzo, di mortificazione nell'alternanza scuola-lavoro. Però ho notato, lo dico subito, poi ne parleremo nella seconda ora, anche in molti slogan un po' di ideologia e massimalismo. Voglio dire, se tu vieni utilizzato per non far nulla, allora è chiaro che ti lamenti, o per compiere attività sempre e solo che consideri mortificanti, voglio dire, fotocopiare documenti, allora uno si chiede giustamente: ma che senso ha questa alternanza scuola-lavoro? Ma dire siamo studenti, non siamo operai, intanto lo trovo assolutamente offensivo per gli operai. Cosa vuol dire? Siamo studenti, non siamo che cosa? Mica stai dicendo siamo studenti, non siamo schiavi? Tu fai l'alternanza scuola-lavoro anche per avere una conoscenza un po' più approfondita di come funziona il mondo del lavoro. E allora mettiamola piatta a piatta. Se tutto il tempo che fai l'alternanza scuola-lavoro ti fanno fare cose o inutili o nulla o talmente ripetitive che impari poco, hai ragione. Ma il fatto che tu ogni tanto faccia qualche fotocopia e che tu non sia retribuito è successo a tutti noi, è successo anche a sottoscritto quando facevo lo stagista, non beccavo una lira, e non è che mi dicessero ti prego facci 120 righe che mettiamo in prima pagina, magari mi dicevano controlla quel materiale, fai una breve di 3 righe o vai a vedere quella presentazione per far presenza, così capisci come funziona la conferenza stampa. Cioè bisogna stare attenti anche ai massimalismi, e io ripeto, per non cadere in un estremo o nell'altro, dire che sono solo schiavizzati oppure dire che va tutto bene, quando anche ci sono casi, come ha ricordato, avremo anche la voce, il vicepresidente di Confindustria, che era delega proprio alla capitale umano, Giovanni Brugnoli, ha detto sì, ci sono delle volte in cui ci sono dei casi in cui c'è un cattivo utilizzo, che vuol dire o un non utilizzo oppure un utilizzo sbagliato. Da lì anche non è vero che, lo dico subito agli ascoltatori, venga sottratto tempo allo studio, nel senso che l'alternanza scuola-lavoro non è un'alternanza di ore, è un'aggiunta di ore, non vai a levare ore di docenza e didattica, diciamo, alla parte lavorativa. Però insomma ho trovato un po' di massimalismo ideologico nell'idea, insomma, vado lì. È chiaro che se non sai fare nulla, è la prima volta che entri in un luogo di lavoro, starai anche a guardare quello che fanno gli altri, farai cose minori e ci sta tutta. Secondo me che in una fase di apprendistato del genere, di alternanza, col lavoro tu possa anche non essere pagato. Cioè, capitava anche prima della crisi. Non è questo. Il problema è che tu non resti a fare lavori, sarebbe ben più grave, lavori per cui invece se avessero retribuiti, quindi tu non venga utilizzato come manodopera per fare lavori che permettono in questo caso all'impresa di non assumere. Questo sarebbe, ed è sbagliatissimo, ce ne siamo già occupati nei casi di distorsione dei voucher, di distorsione, perché c'erano altri casi di utilizzo dei voucher che secondo me erano correttissimi, le lezioni piuttosto che le ripetizioni pomeridiane piuttosto che lavori domestici, lavori in casa. Comunque ne parliamo più avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, anche perché il tema è molto economico, perché ricordo che al di là della misura sulla buona scuola, alternanza scuola-lavoro, perfettibile, migliorabile, basta non dire che lo studente non deve andare a un luogo di lavoro perché sennò diventa un operaio. Ripeto, trovo molto offensivo lo slogan "siamo studenti, non siamo operai". Siete studenti perché dovete diventare, prima o poi, ve lo auguriamo, lavoratori. Che siate, che poi il lavoratore sia un operaio, un tecnico, un quadro, dirigente, dubito all'inizio, questo non importa. L'importante è che uno becchi un lavoro e riesca a farlo anche meglio. Quindi, no, anche perché la qualifica studente non dovrebbe essere una qualifica vita. Sapete che la mia posizione sui fuori corso, tranne nell'università, tranne quelli che lavorano, andrebbe messo un tetto ai fuori corso. Va bene, si mette a fare lo steward gratis a minorenni, lei informatico. Ripeto, io non posso entrare nei singoli casi, non ci trovo niente di strano che uno faccia delle mansioni molto basse o stia anche a imparare. Posso essere d'accordo con chi mi scrive, beh, Barisoni, a giudicare dal risultato che i suoi stage hanno ottenuto sono serviti a poco, manubrio rimasto, va bene. Che i miei stage siano serviti a poco ci può stare, però li ho fatti gratis. Facevo fotocopie e quando andava bene qualche breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, dicevo, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi la diretta del programma su Facebook. Partiamo dalle notizie in breve, vado rapido con la borsa. Più 0,12% Milano, invariata Parigi, invariata quasi anche Francoforte, più 0,16%, l'America più 0,20%, Londra meno 0,1%, pochi spunti oggi in borsa, Telecom Italia bene, più 2,60%, Mediaset più 2%, Salvatore Ferragamo più 2%, Saipem più 1,30%, Fineco Bank più 1,20%, come Tenaris, Moncler più 1,1%, A2A più 0,80%, come Buzzi, Unicem ed Eni. Negative ancora alcune banche, B per banca meno 2, BPM meno 1,1, UBI meno 0,80, Unicredit meno 0,60%, Leonardo perde lo 0,80% anch'essa, Case New Holland lo 0,70%. Di Telecom ci occuperemo, anzi vado subito alla notizia, perché oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale e è arrivata anche la norma antiscorrerie contro le scalate ostili. La misura rientra tra quelle inserite appunto nel decreto fiscale e c'è una norma, lo ha confermato anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, c'è una norma sulla Golden Power e l'esame di questa norma dovrebbe arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri e riguarda soprattutto come applicazione immediata il caso Team Vivendi, nel momento in cui è stato chiarito che Vivendi di fatto ha il controllo del gruppo TIM, pur non avendo una quota di maggioranza assoluta né una stanno sotto il 30%, altrimenti scatterebbe l'obbligo di OPA, però è l'azionista di riferimento. E a quel punto il governo, stando almeno alle dichiarazioni rese in queste settimane dal ministro Calenda, ha intenzione di attivare la Golden Power, cioè sui settori strategici, nel caso specifico su Team. una forma singolare di boicottaggio nei miei confronti. Mi scrive un ascoltatore: non comprerò più né Pandori di Verona, panettone non è Verona e Pandoro, né un vino veneto sulla mia tavola. Non ho capito perché. Se è boicottaggio nei miei confronti, vabbè, così tanto li compro io, soprattutto i vini, per cui ma non è, vuole boicottare il conduttore, boicotto il conduttore. Però guardi bene l'origine. Allora andiamo avanti, anche perché oggi dovrò parlare nella classifica. Vabbè, non voglio svelare il primo posto. Andiamo avanti, dicevo, per quello che riguarda gli Stati Uniti, oggi un dato interessante: per la prima volta Uber a New York ha superato come numero di auto i taxi gialli, gli storici taxi gialli newyorkesi. È arrivata soprattutto dai quartieri lontani da Manhattan, quindi Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island, dai quali partono la metà delle corse. Praticamente, secondo quanto rivelato dal New York Times, Uber ha registrato nel mese di luglio una media di 290.000 corse giornaliere contro le 277.000 corse giornaliere dei taxi tradizionali. Ancora vedo moltissimi messaggi sull'alternanza scuola-lavoro, alcuni che arrivano dalla Germania, dall'Austria, dove non vengono pagati nemmeno lì, sono solo assicurati e sono orgogliosi gli studenti di essere parificati agli operai. Adesso a me non è che voglia far rinascere l'orgoglio operaista, ma uno slogan: siamo studenti, non siamo operai, non si può sentire. Puoi scrivere siamo studenti, non siamo schiavi, puoi fare lo slogan, il corteo, va benissimo. Siamo studenti, non possiamo essere sfruttati, benissimo, ma dire in maniera denigrativa non siamo operai vuol dire che non hai capito, secondo me, nulla del mondo del lavoro, né del mondo del lavoro che ti aspetta e della modestia che serve, vista la rivoluzione con anche morti e feriti che stiamo testimoniando. Dicevo, andiamo avanti con le notizie di carattere internazionale. Oggi un rapporto del Fondo Monetario Internazionale dice: l'Italia approfitti della ripresa sostenuta per i conti, bene la Banca Centrale Europea sugli NPL anche per le prospettive italiane. Quindi il Fondo Monetario è d'accordo con la Banca Centrale Europea sulle nuove regole per le sofferenze bancarie dal 1 gennaio 2018 e per le nuove sofferenze. Per quello che riguarda la Banca d'Italia, invece qui parliamo dell'Italia, le entrate nei primi 8 mesi ad agosto, quindi fino ad agosto, hanno fatto più 11 miliardi e mezzo le entrate tributarie. C'è un dato di oggi sull'inflazione, ma è la conferma della frenata dell'inflazione a settembre, più 1,1%, meno 0,3% su agosto, ma insomma siamo con un'inflazione che tra l'altro frena perché rallentano i prezzi dei servizi relativi ai trasporti e dei beni energetici. Cresce un po', ma il carrello della spesa non è fermo, è 1,1% sull'anno. E questo nonostante vi siano dei rincari, per esempio nei vegetali freschi, del 6% ad agosto, del 5% in tutto 2016. Perché cito sempre il carrello della spesa? Perché finché non ripartirà quello, vuol dire che i consumi degli italiani o sono al palo, o comunque l'essere rimasti così al palo ha portato anche chi offre beni di largo consumo e di consumo frequente, come sono i beni del carrello della spesa, ad abbassare i prezzi. E quindi riesce a stare sul mercato perché ha contenuto o abbassato i prezzi o comunque non li ha aumentati. Vedo anche molti messaggi di persone che invece citano l'alternanza scuola-lavoro, si sono trovate benissimo, anche dai licei, non solo dagli istituti, quindi non voglio fare il tuo nebba un fascio. Devo dire, non devi insegnare niente agli studenti, ci pensare la vita che è un ottimo insegnante. Ho capito, ma abbiamo sempre detto che i ragazzi escono dagli istituti o anche dalle lauree brevi, o anche che non hanno la minima idea di mercato del lavoro, che non è solo imparare il macchinario, è imparare anche le logiche interne a un posto di lavoro, cioè non è semplicemente imparare il mestiere, è un po' più complicato, come sa chi lavora l'ambiente di lavoro, che prevede sì competenze ma anche la conoscenza di dinamiche. Sono cose che impari appunto solo quando ci stai dentro. Comunque lasciamo il tema alle 18:10, se no non vado più avanti. Per quello che riguarda invece l'inflazione abbiamo detto, e prima di arrivare alla classifica, come anticipato, invece adesso vorrei parlare, vista la giornata, della prevenzione e contenimento dei rischi naturali, le catastrofi naturali. Ripeto, non solo una volta tanto sui soldi che mancano, non sono ancora stati dati dallo Stato come prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche e soprattutto su quello che facciamo o non facciamo noi come cittadini e proprietari di case. Sì, parliamo di disastri naturali, o meglio di riduzione dei rischi da disastri naturali, intanto perché è la giornata mondiale della riduzione dei rischi da disastri naturali. Detta così, però, uno può dire vabbè, e chi se ne frega, non è con la giornata mondiale che tu possa risolvere le cose. In realtà, oltre che l'Italia essere il sesto paese al mondo per danni subiti da catastrofi naturali, e ogni anno il settore pubblico, quindi i nostri soldi, intervengono per circa 3 miliardi di euro per danni, l'occasione, la giornata, è l'occasione per fare il punto anche sulle strategie di prevenzione non solo dello Stato. Molte volte abbiamo parlato della necessità di investire soldi, risorse sul dissesto idrogeologico, ma anche di quello che possono fare i singoli privati, i singoli cittadini, quindi i privati. Quasi 8 abitazioni italiane su 10, infatti, siamo al 78% del totale, sono esposte a un rischio alto o medio tra terremoto e fenomeni idrogeologici. Ancora, il 35% delle abitazioni italiane è esposta a elevato rischio sismico, il 55% è esposto ad elevato rischio idrogeologico. Faccio notare che praticamente noi abbiamo un paese, come sappiamo, molto molto fragile e delicato. Sono circa 21 milioni di italiani che abitano in zone a elevato rischio sismico e le abitazioni interessate sono 12 milioni. La classificazione territoriale per grado di pericolo vede l'Italia suddivisa in 4 zone. Le aree 1 e 2 sono quelle con rischio molto abbastanza elevato. L'area 3, dove il rischio è minore, però attenzione, qualcuno ricorderà, spero molti, cosa accadde tra Mirandola e tutta la zona di Reggio Emilia e Modena, e una parte anche del Mantovano. Quella era un'area 3, eppure dimostrato che, insomma, non si poteva certo ritenere al sicuro. E poi la 4 invece è relativamente sicura. Nelle zone più a rischio vivono 3 milioni di persone con 1.600.000 abitazioni. Faccio notare che la Calabria è la regione più esposta a rischio sismico, ha 1.200.000 residenti e 635.000 abitazioni in zona 1. Ora, questi dati li ha diffusi oggi, appunto in occasione della giornata mondiale, l'ANIA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione in Italia. Siamo in collegamento con la Presidente Maria Bianca Farina, buonasera. Buonasera, buonasera. Che cosa, al di là dell'intervento dello Stato, perché voi fate notare come, il dato della protezione civile, negli ultimi 40 anni abbiamo speso 150 miliardi in danni diretti dagli eventi sismici, ma dicevo, voi fate notare che al di là di quello che deve fare lo Stato, anche i privati sono poco accorti. Quant'è la percentuale di abitazioni coperte dalle catastrofi come polizze assicurative? Attualmente la percentuale di abitazioni che sono coperte da questo rischio è pari al 2% di tutte le abitazioni italiane, delle famiglie italiane, e riteniamo che questo sia il frutto del fatto che, a fronte di un rischio così sensibile, c'è scarsa, direi scarsissima, consapevolezza da parte degli italiani sui rischi che corrono. Un'indagine che abbiamo fatto tramite GSK ci dice che soltanto il 17% degli italiani ritiene di essere esposto al rischio catastrofale. Come lei ha detto poco fa, al contrario, ben il 78% delle abitazioni sono esposte a questo rischio. Ecco, senta, ma questa scarsa consapevolezza e copertura assicurativa nasce dal fatto che io penso che la mia casa sia coperta anche da rischi che invece non sono previsti dalla polizza? per cui al di là dell'antincendio, l'antifurto, uno non va a controllare bene, oppure secondo lei è un problema anche di ignoranza in senso stretto? Secondo me è un problema di scarsa sensibilità al tema, perché quando si fa, è incredibile, no? Che si compra una casa, ci si preoccupa di assicurarla per l'incendio e non ci si preoccupa di estendere quella garanzia anche ai rischi catastrofali. Quindi a mio giudizio è proprio poca sensibilità a questo tema, per quello che dicevamo prima, non c'è consapevolezza negli italiani dell'effettivo rischio. Ecco, vedo alcuni messaggi però che stanno arrivando, dicono, beh, è chiaro che le compagnie assicurative spingano per maggiori polizze, può essere che oltre a una poca sensibilità nei confronti, diciamo, del rischio catastrofale, vi sia invece un'alta sensibilità nei confronti del costo della polizza? Però qui dobbiamo sfatare una leggenda. Perché intanto noi non è che spingiamo, ovviamente riteniamo come gestori di rischio, gestori storici nel nostro DNA, gestire rischi e quindi ci candidiamo, il nostro mestiere ed è ovvio che ci candidiamo per questo, ma riteniamo che poi la soluzione sia nell'attivare risorse pubbliche e risorse private, l'una a fianco all'altra in complementarietà. E per tornare alla preoccupazione sui costi, dicevo, c'è da sfatare una leggenda, e cioè che queste coperture sono carissime. Non è così, perché laddove le abitazioni fossero tutte coperte da questo rischio e quindi ci fosse una vera mutualità tra rischi e assicurati, l'assicurazione per le categorie per tutte le categorie legate alle catastrofi naturali, per una casa media di 100 metri quadri non costerebbe più di 100 euro l'anno, quindi io dico un caffè ogni tre giorni. Non credo che le famiglie italiane non possano spendere una cifra di questo tipo, che darebbe tranquillità nell'oggi, aiuterebbe e creerebbe un circolo virtuoso sulle prevenzioni, che è la cosa più importante cui tutti dobbiamo tendere, e in caso di danni avrebbe risarcimenti completi, certi e in tempi brevi. E soprattutto, mi lasci dire, con procedure assolutamente trasparenti, come noi di solito facciamo. Due domande ancora rapidissime, che poi andiamo con la classifica. Però, prima domanda, non è che magari negli italiani ci sia l'idea che se in caso di un disastro vero, ahimè, di un terremoto vero, tanto poi interverrà il denaro pubblico, cioè la compensazione arriverà dai soldi stanziati per l'emergenza, come abbiamo visto capitare per Amatrice, per l'Aquila, per l'Emilia Romagna, per le Marche. Adesso non voglio ricordare me, la lista purtroppo è molto lunga, e quindi uno dice, ma se di fronte a mentre il rischio incendio, tra virgolette, è solo mio, il rischio furto può essere solo mio, nel caso di un terremoto lì comunque l'iniziativa deve essere pubblica. Beh, intanto la nostra ricerca dice che questo lo pensa il 46% degli italiani, quindi non tutti. E in ogni caso dobbiamo tenere presente due cose, che l'intervento pubblico è sempre ex post e quindi arriva quando i danni ci sono già stati, e finché sono danni economici si possono rimborsare, ma quando i danni si riferiscono a vittime non c'è pubblico o privato che tenga. Mentre nel sistema che noi auspichiamo, dove si affiancano risorse pubbliche e private, le risorse pubbliche si liberano risorse comunque da attivare sulla prevenzione. E questo fa una grande differenza, perché questo sì che evita i danni e comunque li mitiga. Altra cosa importante, l'intervento pubblico non è che il pubblico ha delle entrate in sé, è sempre un intervento che poi ricade sui cittadini, ce ne accorgiamo meno, ma è chiaro che noi oggi ancora, l'abbiamo visto stamattina, stiamo pagando imposte che riguardano addirittura il territorio del terremoto del Belice. Ah beh, lo so bene, nelle accise per la benzina. ma questo infatti poi è un costo che paghiamo tutti noi. Ultima domanda rapidissima, però Presidente Farina, alla luce anche del vostro rapporto, molti mi chiedono, ma le case realizzate, magari poi condonate, ma insomma sappiamo che purtroppo nel sud, ma non solo, ma nel sud è un vero problema, molte delle abitazioni che sono in zone sismiche non dovevano essere costruite lì o sono state costruite in maniera non appropriata. In quei casi voi assicurate anche queste abitazioni? Guardi, noi assicuriamo laddove c'è un rischio di evento, non dove c'è una certezza di evento. Allora dipende dalla situazione. Se la casa è stata costruita abusivamente su una zona che è totalmente a rischio, non è assicurabile proprio perché manca il presupposto. Laddove invece la casa è stata costruita ma condonata e quindi rimessa in regola, a quel punto non c'è dubbio che l'assicurazione interviene. Grazie, grazie anche al Presidente dell'ANI, all'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, Maria Bianca Farina. La saluto e la ringrazio. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità. Alcuni mi scrivono, guardi, che i costi sono più alti. È chiaro, insomma, anche l'ANI ha tirato acqua al suo mulino. Comunque andiamo su meteo, pubblicità. E poi la poco invidiabile classifica e l'alternanza scuola-lavoro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. La natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. La classifica della settimana. 17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la classifica della settimana, partiamo subito dal quinto posto. Alcuni di voi mi hanno detto, ma scusate, mi metterai sicuramente gli impiegati della ASL di Bari beccati a fare anche gli usurai durante l'assenteismo? No, nel senso sì, hanno arrestato 7 indagati, notificato 16 provvedimenti interdittivi. Alla ASL Bari, è attiva anche al policlinico, sono stati anche arrestati 2 dipendenti di Sanità Service perché non si presentavano al lavoro in molti casi e durante l'orario di lavoro comunque incontravano le vittime dell'usura e facevano riscossione dei prestiti erogati, risultavano comunque sempre presenti perché si facevano timbrare il badge da altri colleghi. E poi per gli altri impiegati assenteisti, i carabinieri hanno accertato che sempre durante l'orario di lavoro andavano in località di villeggiatura, andavano a pesca o svolgevano attività di natura personale. Beh, anche queste mi sembrano di natura personale. No, il motivo per cui ci occupiamo delle ASL pugliesi è un altro, perché la Giunta, pur tagliando la Puglia su molte cose, ha delle priorità. E la priorità è riportare la paga dei manager delle ASL al pre-legge regionale del 2011, quando venne decurtato del 10% lo stipendio dei manager delle aziende sanitarie pugliesi. In realtà fu decurtato del 30%, perché un primo taglio del 20% arrivò con la delibera della Giunta, a quel tempo c'era Nichi Vendola, e poi un altro taglio del 10% arrivò con la legge regionale del Consiglio. E furono ridotti, oltre ai compensi dei direttori generali, anche quelli dei direttori amministrativi sanitari, che passarono da 123.000 a 90.000 euro. Questo scatenò polemiche perché i manager dicevano: prendiamo uno stipendio inferiore a quello dei direttori dei distretti sanitari. Uno può dire, giusto, riduciamo anche lo stipendio un po' dei direttori dei distretti sanitari. No, anzi adesso si punta ad aumentare i salari. Con la delibera approvata, i manager sono stati divisi in 2 fasce: direttori generali di prima fascia, quindi i dirigenti delle 6 ASL dei 2 policlinici di Bari e Foggia, avranno un trattamento economico di 140.000 euro, quindi torneranno a livello di 140.000 euro. Tra l'altro, in media lo stipendio in realtà è sui 154.000 euro lordi, e poi che arrivano anche a 170.000 con i premi come euro lordi. Ma la cosa interessante è il ragionamento che fa la Giunta. Dice, attenzione, in media in Italia, poi c'è una seconda fascia con i dirigenti degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di Bari, Castellana, Grotte, che prenderanno 125.000 euro lordi. E anche l'istituto, il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. No, il ragionamento che viene fatto è questo: insomma, siccome la media di quanto prende un direttore generale della ASL in Italia è sui 154.000 euro lordi, se vogliamo essere competitivi come regione bisogna attirare i manager migliori e quindi aumentare gli stipendi attorno a quella cifra. Due piccolissime obiezioni, a parte il fatto che magari uno dice, vabbè, se la metti così andiamo a vedere il costo della vita in Puglia rispetto al costo della vita in Lombardia, ma quello introdurrebbe il tema di quanto, diciamo, valgono 154.000 euro se sei in una grande città o se abiti, diciamo, in una città media pugliese. Ma c'è un altro tema più importante sullo sfondo. La sanità italiana è a macchia di leopardo, sappiamo che funziona molto bene in alcune regioni, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, non c'è problema a dirlo, molto meno bene in altre regioni, e anche la Puglia su questo, pur con casi di eccellenza, non è una delle regioni, ne abbiamo parlato molte volte, nei primi posti in classifica. Allora, a parità di stipendio tu devi essere anche in grado di portare la tua struttura sanitaria a quei livelli, perché 154.000 euro che prende un dirigente sanitario a Modena, a Padova o a Milano non danno un servizio migliore rispetto a quello pugliese. B, mi va bene il ragionamento, però a questo punto metti anche le valutazioni di merito, perché se tu vuoi fare un ragionamento dove prendere i dirigenti migliori, allora inserisci delle valutazioni di merito, non che tutti raggiungano l'obiettivo, che magari l'obiettivo è come abbiamo detto molte volte, è un obiettivo talmente facile che lo raggiunge anche un bambino. Metti le valutazioni di merito, quindi tu vuoi attirare i migliori, li valuti. Se dopo un anno gli obiettivi seri non sono stati fissati, gli riduci lo stipendio, li mandi via, e vediamo poi il risultato per i cittadini pugliesi e la gestione delle ASL. Allora il ragionamento ha un senso, altrimenti in questo modo è semplicemente una regalia ai dirigenti sanitari senza nessuna verifica del loro lavoro. Quarto posto, ecco, dice, ce l'hai con la Puglia? No, non ce l'ho con la Puglia, aspettate, abbiate pazienza. Quarto posto, andiamo a Napoli. Io non ho capito bene, ma ci ho messo un po' a capire questa vicenda, perché a Napoli stanno costruendo la linea 6 della metropolitana, che avrà delle stazioni bellissime, alcune le abbiamo già raccontate, quella famosa in cui scrissero però sui cantieri, mi sembra vicino a Piazza del Plebiscito, non a Piazza del Plebiscito, no, vicino a Castel dell'Ovo, comunque... ma la metropolitana la state scavando o la state cercando? Non dimenticherò mai quella frase. Perché lo dico? Perché la vicenda che sto per raccontare è allucinante. C'entra anche la metropolitana di Napoli. Che cosa succede? Il 18 maggio del 2004 viene presentato in Piazza Vittoria il tram Sirio. È un tram importante, esiste anche in altre città, perché ha la motrice in testa e in coda, cioè ha un sistema bidirezionale. Si può guidare le due estremità, quindi ti permette di non dover far girare il tram quando arriva a capolinea, lo dico male ma ci capiamo, qualcuno di voi avrà avuto un tranino da piccolo, e può ripartire senza, diciamo, dover fare rimettersi in testa. Allora, ne comprano 22 di Sirio, prodotti, quelli modello Pininfarina, prodotti da Ansaldo Breda, li acquista l'azienda napoletana mobilità, l'ANM, paga 24 milioni di euro che ricava dai BOC, i buoni ordinari comunali, appunto. Ottimo tram, cabine all'estremità. Allora, oggi i 22 Sirio, insieme ai più datati CTK, che sono i tram che sono del 1940, una cosa del genere, adesso 1934, ma insomma sono tutti parcheggiati secondo le migliori tradizioni nel deposito di San Giovanni, sono fermi senza alcuna manutenzione adeguata e non circolano. Colpa dei cantieri lumaca della metropolitana anche, ma anche di una cattiva programmazione del piano trasporti, perché il tram tra l'altro è un mezzo di trasporto ma anche di attrattiva turistica, lo sappiamo, basta andare a vedere quello che succede a Milano e in altre città che le hanno, li usano anche come elemento di attrazione turistica. Da due anni invece non ci sono più mezzi sulle superfici, cioè sulle rotaie a Napoli, basta coi tram, perché è stato aperto il cantiere di Via Marina e quindi non possono uscire dal deposito, il tram non riesce ancora a volare, non ha il decollo verticale. dal deposito di San Giovanni, l'unico dotato di binari, quindi restano fermi lì. Cioè tu apri un cantiere davanti al deposito dei tram, nessuno si pone il problema come faranno i tram a uscire dal deposito, ma sembra il trenino Thomas, come si chiama il trenino Thomas, una roba pazzesca. E, eppure tutto va bene così, quindi i tram restano lì e non possono uscire dal deposito di San Giovanni. La data di acquisto di 17 anni fa, in realtà hanno lavorato molto poco questi Sirio, anche perché quando entrarono in funzione si scoprì che consumavano troppa energia elettrica e dopo il loro passaggio gli altri mezzi si bloccavano, dei vampiri. Ma qualcuno si ricorda l'altra vicenda? Quando è che commentammo i tram comprati, i treni comprati con, dalla Polonia in Puglia, secondo me, con i finestrini sigillati, che col senza aria condizionata, che praticamente era il modo migliore per dimagrire, altro che scriversi in palestra. Comunque qua non sono quasi mai usciti. Adesso comunque il percorso da San Giovanni a Teoduccio Piazza Vittoria è bloccato anche quello perché sono scattati i lavori per ridisegnare Via Marina, un cantiere la cui chiusura si trascina da 2 anni e ha decretato la fine degli ultimi tram che circolavano per Napoli. Ne erano comunque rimasti in circolazione 7 su 22, dopo 2 anni però sono fermi anche quelli e abbandonati. Prima o poi entrerà in funzione la linea 6 della metropolitana e a quel punto per il tram non sembra esserci più spazio, a meno che di un cambio di programma e un nuovo progetto. Nel frattempo i binari orfani dei tram vengono percorsi dai pedoni, ma almeno fate una pista ciclabile, che devo dire. Vai, traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, ma per pochi minuti, pochi istanti. Vedo che alcuni, giustamente, non ci avevo pensato, sul quinto posto in classifica, e quindi gli stipendi dei dirigenti della ASL che vengono riportati al tetto massimo, perché la media è quella in Italia, bisogna attrarre talenti. Giustamente un ascoltatore mi scrive: va bene, seguiamo il ragionamento della Regione Puglia, licenzi tutti i dirigenti delle ASL, fai un bel bando con quella cifra e allora li assumi, ma non puoi semplicemente riportare in alto del 30% lo stipendio di un dirigente che è lì e che non hai valutato. Io seguo il ragionamento: attirate i cervelli migliori, licenziate tutti i dirigenti della ASL pugliesi, rifate la gara al nuovo salario e vediamo, e lì allora arriveranno i migliori, se no è una presa per i fondelli. Caro governatore Emiliano, caro parlamentino della Puglia. Allora, vado sul... mentre qualcuno mi chiede, sul binario ancora il tram e quant'altro, sì, poi ci arriviamo. Ho terzo, secondo e primo posto in classifica, bellissimi, e questa volta la classifica non viene vinta da regioni che hanno maggiori posizioni di solito, e quindi rimando a dopo il GR24, prima di parlare appunto dell'alternanza scuola-lavoro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Gianluca Nicoletti dalla stazione di Radio 24. Comunicazione di servizio. Il mio viaggio in treno continua. Chi volesse saperne di più, mi ascolti ogni sabato alle 15. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere la classifica e poi arrivare all'alternanza scuola-lavoro, visto che le manifestazioni di oggi in oltre 70 città italiane. Andiamo al terzo posto e dalla Puglia, abbiamo fatto Campania, Puglia, adesso ci spostiamo in Sicilia, sia per il terzo che per il secondo posto, nello specifico a Palermo, ma c'entra anche la regione, perché fummo facili profeti nel dire: per carità, volete dare 80 euro di integrativo ai forestali regionali, che sono 22.000 in Sicilia, sono la metà di tutti i forestali italiani, sono il doppio di quelli canadesi, orso, yogi incluso, vabbè. Però prima le altre priorità, perché costa 20 milioni, anche un po' di più all'anno. Allora, dico, guardate che in Sicilia non si riuscivano a garantire i servizi alle persone disabili, cosa diciamo che è assulta agli onori delle cronache anche grazie all'intervento di Piff e di altri personaggi del mondo dello spettacolo, penso a Fiorello, ma non solo. Allora, sentite questo. Da un lato, a Palermo, a quasi un mese dall'inizio dell'anno scolastico, sono ancora nel caos i servizi per gli studenti disabili delle scuole superiori, ma gli 80 euro pre-elezioni regionali ai forestali sono arrivati in un batter d'occhio, aggiungo io, e questo è il terzo posto della classifica. Niente trasporto da casa a scuola, niente assistenti igienico personali in classe, né assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Le famiglie dei ragazzi disabili hanno chiesto e hanno incontrato il sindaco Orlando, hanno chiesto ai rappresentanti alle istituzioni, conosciamo bene i disagi che vivono queste famiglie, ha detto Orlando, c'è il massimo impegno, ma intanto la data di una partenza ai servizi ancora non c'è. Non solo il trasporto, perché c'è un servizio di trasporto per gli studenti disabili che però sono in grado di camminare, è stato approvato l'accordo con l'AMAT, l'azienda municipalizzata autotrasporti. Per i ragazzi che invece non possono muoversi da soli è in corso di definizione la convenzione con l'associazione siciliana Medullolesi Spinali. Io dico una cosa, ma queste cose perché non le fate prima che inizi la scuola? Cioè, perché è così urgente dare l'integrativo ai forestali, subito fatto, e qua ancora dovete firmare la convenzione, state definendo la scuola, è già iniziata. Forse che i disabili votino meno? Magari alcuni non sono nemmeno maggiorenni? Forse che il voto... abbiamo raccontato di cose bellissime sui finanziamenti alle sagre, di assessori che al turismo che si candidano, no? Forse votano meno? Non ne posso più, guardate. Oggi non ho capacità di mediazione. Non solo c'è il problema del trasporto, ma c'è anche il problema del personale, per l'assistenza igienico personale. Inizialmente le stime erano di 96 assistenti, adesso ne servono 186 dagli assistenti delle cooperative. Si riparte quindi di nuovo da zero, perché la ex provincia aveva pensato a un sistema misto bidelli assistenti delle cooperative con un bando ad hoc che adesso andrà rivisto per trovare tutti gli assistenti che servono. Altra dimostrazione che sostanzialmente non gliene frega nulla, ok? Ancora, la regione, perché c'entra anche la regione, non solo Città di Palermo, perché è la regione che dà i soldi, poi è una regione autonoma, no? Al parlamentino, benissimo, ha dato poco più di 3 milioni a Palermo, con un fabbisogno stimato per i disabili di oltre 7 milioni. Anche se comunque dovesse andare in porto, dovesse cominciare il trasporto sia per i disabili che possono camminare, sia per quelli che non possono nemmeno camminare, comunque non avrebbero gli assistenti igienico-personali, perché i tempi vanno a dilatarsi. Allora io dico una cosa, riesce a dare 3 milioni contro i 7 richiesti dalle associazioni la SLAI COBAS e soprattutto di chi, le associazioni di chi, dei genitori, dei parenti di ragazzi o adulti disabili. Allora, ne dai 3 e fai il taccagno, fai il braccino corto, fai il T-Rex con i 7 che servono, però non hai problemi a trovarne 20 per i forestali, per i 22.000 forestali siciliani. E soprattutto, sentite il secondo posto a chi va, perché va la regione Sicilia, che non riesce a trovare 3 milioni per i disabili, ma è riuscita a spendere, oltre ai soldi per i forestali, 35 milioni di euro buttati al vento di fondi europei e statali, soldi nostri, spesi dalla regione nel 2014 per assumere 1.800 ex sportellisti in un nuovo centro che si chiama, i lombardi capiranno anche l'ironia, Ciapi. Qua ciapiamo solo noi, nel senso lombardo del Ciapi. Ok, centro interaziendale addestramento professionale integrato, Ciapi. Allora, di cosa serviva questo centro? Serviva, a parte il fatto che se uno avesse l'idea delle priorità, aspetta un attimo, inizia a permettere, la scuola è un diritto oltre che un obbligo, adesso ne parliamo, ai ragazzi disabili di frequentare la scuola? No. Bisognava, come altra urgenza, nel 2014 l'urgenza era assumere 1.800 ex sportellisti al Ciapi. Per fare che cosa? Per dare la formazione e il sostegno al reinserimento nel mondo del lavoro di 9.000 cassa integrati. Ok, gli fai formazione. Peccato che la Corte dei Conti, ma anche la Guardia di Finanza, si sono messe a indagare, e la Corte dei Conti stima in 35 milioni il danno finora reso, perché ha inviato gli inviti a dedurre che per la Corte dei Conti è una specie di avviso di garanzia a tutti i componenti della giunta che nel 2013 approvò il progetto Spartacus e Ciapi. Ma come fai a tenere assieme due cose così? Spartacus, quello che doveva rilanciare il Ciapi, lasciato a secco. Il danno di 20 milioni viene contestato anche all'ex dirigente del lavoro Anna Rosa Corsello e all'allora assessore al ramo Esther Bonafede. Gli indagati sono, le contestazioni alla Corte dei Conti riguardano tutti, da Rosario Crocetta a Nino Bartolotta, Luca Bianchi, Lucia Borsellino, Dario Cartabellotta, Mariella Lobello, sono tutti componenti della giunta. Ok? Perché li hanno buttati al vento? Perché quando la Guardia di Finanza è entrata, ha scoperto che moltissime di queste persone non facevano nulla. Nulla! E abbiamo una nuova categoria dello spirito, oltre che della formazione, che si chiama l'autoaggiornamento. Cioè, chi deve aggiornare i cassi integrati si stava autoaggiornando. Non sto scherzando, hanno risposto così i finanzieri, alcune di queste persone messe lì, alla domanda: che cosa fa lei oggi qui? Risposta: mi sto autoaggiornando. Autoaggiornando? Ma allora che cavolo, tu devi aggiornare i cassi integrati, non autoaggiornare te stesso? E come fai ad autoaggiornarti? Mi autoaggiorno da solo. Dalla direzione non ho avuto alcuna indicazione, il materiale non c'è, mi autoaggiorno. Ma su che cosa ti autoaggiorni? Ma che è un atto onanistico questo, non è autoaggiornamento. E andiamo al primo posto. And the winner is... Adesso qualcuno dirà, c'è il referendum in Lombardia, in Veneto, non me ne frega nulla del referendum, che ci sia, benissimo, ma non è per questo motivo che mettiamo al primo posto Venezia. Mi piange il cuore, visto diciamo che ho un'origine anche lì, perché la storia del MOSE sta diventando, al di là dell'inchiesta della magistratura, delle contestazioni, delle richieste di anni di galera e quant'altro, sta diventando uno schifo, perché come ogni tanto qualcuno dice, qui rubano ma non sanno nemmeno costruire. Perché dice, ok, il MOSE doveva costruire, il MOSE sono quelle paratie che si alzano alle bocche di porto per non far entrare l'acqua. In realtà fin dall'inizio sono a Lido, San Nicolò, Malamocco e Chioggia, sino all'inizio si sapeva che non avrebbero evitato l'acqua quella altissima, ma l'acqua, diciamo, l'acqua media, quella da tra gli 80 e i 100 centimetri, non quella eccezionalmente alta, da 110 centimetri a 3 metri. Moltissime le contestazioni allora. Perfetto. Doveva costare 1 miliardo e 600 milioni, è costato 5 miliardi e mezzo. Doveva entrare in funzione nel 2011, se tutto bene partirà all'inizio del 2022. Coinvolti l'ex governatore Galan nelle inchieste, la magistratura, Mazzacurati, ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, la ditta Mantovani. Ma ripeto, lo scandalo qua, dice, qual è la novità, Barisoni? La novità è che non solo hanno mangiato, la magistratura indaga, e ha mangiato in maniera poderosa, ma non l'hanno nemmeno costruito bene. Questo mi manda nei pazzi. Allora, adesso intanto serviranno altri 700 milioni di euro per finire sto MOSE, più almeno 105 milioni di euro all'anno per garantire il funzionamento e la manutenzione. Non si sa ancora chi tira fuori 105 milioni di euro all'anno, sicuramente non il sindaco di Venezia Brugnaro, che non li ha. Ok? E si disse a suo tempo, ma perché non usare il 1,6 miliardi, poi è diventato 5 miliardi e mezzo, per rifare bene le fondamenta di Venezia, per pulire, dragare i canali, basterebbe quello per risolvere molti problemi. E no, ma lì mangi poco. Cosa vuoi mangiare da un dragaggio? Puoi mettere il MOSE? Anche perché a suo tempo il consorzio Venezia Nuova propose anche una costosissima operazione di isolamento completo di Piazza San Marco della Basilica. Doveva posare un'enorme guaina, una specie di preservativo attorno a Piazza San Marco. Meno male che non l'hanno fatto, perché si sono accorti adesso che per mettere in sicurezza la piazza basta, per l'acqua fino a 110 centimetri, basta un intervento da soli 2 milioni di euro, tra cui speciali tappi di gomma e metallo nella basilica per bloccare l'ingresso dell'acqua dal sottosuolo. Ma perché dico che la cosa mi fa impazzire? Perché il MOSE ha cedimenti strutturali per la corrosione elettrochimica dell'ambiente marino e per l'uso di acciaio diverso da quello dei test. Le cerniere che collegano le paratie mobili in base alla base di cemento, ce ne sono 156, ognuna pesa 36 tonnellate, un appalto vinto da Gruppo Mantovani senza nessuna gara, 250 milioni di euro, sono ad altissimo rischio, dal 70 al 100% di essere già inutilizzabili. Un controllo ha mostrato che la cerniera del Mose di Treporti, quello che è già operativo sott'acqua da 3 anni e mezzo, è già in avanzato stato di corrosione. Io mi chiedo come si possa fare, se non per rubare, una cerniera di una paratia che deve stare sott'acqua la maggior parte del tempo e che dopo 3 anni è già in stato di corrosione. Ma manco la maschera di mio figlio comprata in edicola si corrode dopo 3 anni. Tra l'altro sono stati fatti dei test in questi mesi, le paratoie non si alcune paratoie non si alzano, altre non si alzano ma non si abbassano. Ogni paratoia fa il che cavolo vuole, c'è quella che non si alza, quella che si alza non si abbassa, quella che vorrebbe abbassarsi ma non riesce a abbassarsi perché ci sono i detriti che si sono accumulati, diciamo, nell'interstizio tra quando la paratoia si alza e quando deve riabbassarsi. Problemi alle tubazioni, un cassone esploso nel fondale di Chioggia, auguri per le vongole, i pesci, almeno qualcuno avrà mangiato bene. Una nave speciale costata 52 milioni di euro per trasportare le paratoie in manutenzione al rimessaggio nell'arsenale si è rotta al primo tentativo di sollevare una delle paratoie, si è spazzata proprio. Allora, un applauso, non me ne frega nulla, guarda, prendetela come volete. Un applauso, perché lo schifo che si è visto, non solo siete solo bravi a rubare, manco riuscite a costruire. Ma sì, ma poi vedremo Galan, Mazzacurati, hanno mangiato tutti, ma guardate che c'è un'inchiesta enorme, l'abbiamo parlato molte volte. Ma dico, almeno fallo bene, cavolo! Ti devi far la villa, io spero che ti becchi la magistratura, ma almeno fai l'opera. Cosa ce ne facciamo del Mose messo lì con sti cassoni, dove li mettiamo? Ah, potremmo organizzare dei carceri in laguna, certo. Utilizzarle come base per nuove, visto che c'è il sovraffollamento nelle carceri. Ma a proposito, farli lavorare, facciamo l'alternanza carcere lavoro socialmente utile. Paolo Ganis, uno dei fondatori di Clayry, buonasera Ganis, lei mi deve scusare, anzi mi deve scusare proprio perché devo affrontare il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Siamo in ritardo perché la classifica mi porta via. Lunedì la riavrò e ci racconto cosa è questa bellissima iniziativa che lei ha lanciato, che vede già 8 dipendenti, sembra una cosa facile e ha una bellissima storia anche di raccolta di soldi sul mercato, il cosiddetto crowdfunding. Le do appuntamento, le auguro buon weekend, le do appuntamento lunedì, intanto mando il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presento Focus Economia. I 18:25, Pindaro dove sei? Nel senso che, allora, sono arrivate centinaia di messaggi sull'alternanza scuola-lavoro e non riesco, obiettivamente io non ce la faccio in 4 minuti a fare l'alternanza scuola-lavoro, quindi ribalto tutto e ringrazio l'ospite della startup Paolo Ganis, chiedo aiuto a Pindaro, ringrazio anche per il volo che sto per fare Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, che avremo ospite lunedì. Ribadisco che ne ragioneremo sia sugli estremi raggiunti da alcuni lavoratori, vedo moltissimi messaggi su questo, ma anche sui massimalismi degli studenti che vanno in corteo e dicono siamo studenti non operai, è inaccettabile, ok? Sei studente e vorresti diventare operaio e iniziare a lavorare, ma che roba è sta qua, l'operaio visto com'è, siamo studenti non siamo ladri, ma stiamo scherzando. Quindi secondo me c'è molto massimalismo anche su questo. Poi qualcuno mi scrive, mio figlio è stato messo a volantinare per la palestra, è chiaro che quella non è alternanza scuola-lavoro, ma ci sono molti altri casi virtuosi. Invece, di nuovo grazie a chi ha creato una startup che si chiama Clayry. Paolo Ganis, che cosa fa Clayry, in quanti siete, quanti anni ha, chi vi ha aiutato, quanto fatturate, che fa sto weekend, perché ho 2 minuti di più, non posso, prego. Buonasera, grazie, cercherò di essere velocissimo. Allora, Cleary, la nostra startup ha creato un vaso che purifica l'aria, quindi funziona con piante vere, e quindi siamo in grado di abbattere gli inquinanti da interni grazie al nostro sistema. L'abbiamo brevettato, un sistema anche domotico, molto tecnologico, che si può creare, collegare al proprio smartphone e vedere in tempo reale i livelli di inquinanti che si hanno nei propri ambienti domestici. Siamo partiti 2 anni fa, abbiamo creato la società italiana e poi abbiamo creato la società americana, dove abbiamo lanciato il prodotto al CES di Las Vegas. E il 2017 è l'anno di consacrazione della startup, perché stiamo andando a raggiungere un fatturato di circa 500.000 euro. Ci stiamo allargando tantissimo, stiamo aumentando il team, siamo arrivati a 8 persone adesso e abbiamo appena ottenuto un importante investimento dall'Unione Europea di circa 2 milioni di euro. E durante il weekend penso che mi rilasserò, perché stiamo lavorando tantissimo. Bravo, senta anche per l'ironia, e quanto stimate di raggiungere l'anno prossimo? Beh, il prossimo anno cercheremo almeno di raggiungere i 2 milioni di fatturato, quello sicuro. Oh, in bocca al lupo a lei, visto la giovane età, a tutti i suoi collaboratori, perché siete 8 persone ma in continua espansione. A qualcuno mi scrive: il lavoro va pagato, sul tema alternanza scuola-lavoro. Sì, il lavoro va pagato, lo stage non necessariamente, però bisogna capire che sia uno stage vero, non c'è niente di cui scandalizzarsi, ma ne parliamo con calma, vi prometto un amplissimo spazio lunedì a tutti quelli che sono interessati, già fisso l'orario alle 18, così già lo sappiamo. E nel ringraziare chiaramente lei, Paolo Ganis, e tutti i suoi collaboratori, ringrazio come sempre anche Barbara Bianchi e Mauro Del Conno per l'assistenza in redazione e in studio questa settimana. Auguro a tutti voi un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo con Focus Economia lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.